Ehi, già sono io, a voi. Ciao. Ma Rauco sì. Mezzo Rauco sono là, più che altro. Ah boh, cazzo. Come sta uscendo, Antonio? Da tanto non accendevo questo apparecchio. Sta uscendo benissimo, non c'è problema. Ehi, ci mancherebbe. 9.30 sì, qua, eh. Non va bene. Basta, avanza. 9.30 va benissimo. Oh, ma non c'è più nessuno. Cazzo, già 3-4 volte è acceso. Tutti i deserti canali sono. Cazzo, tutti disaltato hanno. Sì, sono tutti quanti al mare, cosa ne so io. A un certo punto bisogna capirli. Sono giornate di mare adesso. Ah, forse stanno andando a mangiarsi le chiappe e io fanno bene. Senza con questo caldo si può stare attaccato a questa Gesù. Mi è saltato la testa così, ho te si accende la mia presenza qualcuno. E meno male ho trovato a te, ma dopo tanto. Vabbè. L'importante è che stia uscendo bene, Antonio. E beh, vi saluto, come va? Così vi saluto, no, più che altro. Non è che mi posso lamentare, ma a un certo punto va bene così come va. Si va avanti, là. Si va avanti. Ah, bella meglio, cosa vuoi fare? Un giorno bene, un giorno male, tiriamo avanti. È come quel proverbio. Che la barca va, lasciamo andare, che non la va mai si vecchia, e cosa vuoi fare? La vita così. Ah, quello già è vero, Fili baracchino va, lascialo andare, se no si abbia ancora. È proprio così, Va bene, la troverà. Io ho acceso così, tanto per vedere se funzionava a me, comunque. Eventualmente ci risentiamo, Antonè. Grazie del controllo, già ci sentiamo. Saluto in casa, Antonè. E anche tanto a te, non c'è problema. Saluto a tutti. Io sono all'ascolto qua, non è quello il problema. C'è caldo più che altro adesso e quindi una cosa e l'altra. La carità. 41 gradi ho già segnato me. Se esci fuori, sei cotto, senza manco bere acqua. Lasciati. Vabbè. Ciao, Antonio, ci sentiamo, vai, ciao. Ciao, ci sentiamo. Stammi bene alle prossime. Comprati la Coca-Cola. Avanti, chi è? Buonasera, avanti, chi chiama? Comprati la Coca-Cola. Avanti per la Coca-Cola, io ho aranciata, se ti va bene è uguale. Da dove stai chiamando? Buongiorno. Buonasera, Valerio D'Alghero. D'Alghero? Alghero, Valerio da Alghero. Ok, ben sentito comunque, salutoni. Non ho capito il nominativo. Valerio. Ho capito nulla, aspetta. Dillo piano con l'eco, se no non ti capisco. Aspetta, prova un po' così. Valerio. Giovanni, giusto? Va però mi va, Valerio. Ho già compreso tutto, vabbè, comunque sia, già c'è scritto in quella chat, quindi Giovanni, già ti recupero subito, se sei iscritto in quella chat di Alghero, sono iscritto anch'io. Tu chi sei? Che non mi ricordo. Con Giovanni Figaro stavo parlando, qua in 27, mi senti? Sì, c'ho QRM qua, a non finire. Ho detto che stavo parlando con Gio Maria Figaro, da Sassari, hai capito? Gio Maria? Sì, Gio Maria Figaro. Allora, quando senti a Claudio, salutamelo. chi è al telefono? Ehi, Gian Maria. Chi è? Claudio, mi tocca. Claudio di Alghero dovrebbe essere. No, Claudio Sparviero di Sassari. No, non è Carlo Sparviero di Sassari. È Gio Maria Figaro. Carlo Sparviero di Sassari ancora non l'ho sentito in questo momento. Buonasera, arrivi bene qua, Santa Costetta Radio 5, complimenti. Ok, vabbè, volevo sapere se arrivava Alghero. Ci sentiamo comunque, proseguita con Antonello, ma io devo chiudere per forza. Ciao. Hai sentito l'amico di Alghero? No, non lo sento, no, è proprio basso. Io ho un po' di QRM che non lo sento proprio. Allora, infatti ti ha detto che lui sta chiudendo, perché deve chiudere non so che cosa, aveva dei problemi e quindi non è Claudio Sparviero, ma è Gio Maria Figaro. Hai capito? Aspetta una circolazione. C'è una nave in partenza. Adesso ti ascolto, sei rientrato. Tu vedi, a Olmedo eri? C'è troppo QRM e non riesco a ascoltare bene. Ho letto che poco fa stavi parlando con Gio Maria Figaro, non con Claudio Sparviero. Hai capito? Stavo parlando con Gio Maria Figaro, così. Bravo, ok, ci sei arrivato. Ma tu QRM ne hai? C'ho anch'io il QRM, non è che non ce l'hai neanche tu. Quindi, vabbè, ma tu sei oscillante, sei in macchina, quindi il discorso è totalmente diverso. Io sono in stazione fissa, hai capito? No, io sono a casa, in stazione fissa. Sei a casa? E come fai a essere a casa con questo segnale oscillante? 7, 9, ma cosa c'è? L'antenna che si è portato via il vento. No, è che la potenza qua è modulata, la potenza è modulata, capito? Ma non puoi usare la frequenza modulata come pensi tu, a un certo punto, mi sembra a caso il periodo che tutti usavano l'apparecchio 1 watt e poi con le liane ne usavano quasi 200-300 watt e quindi davano i picchi positivi a un certo punto, no? La verità è una cagata, perché è una cagata. O esci con 200 o esci con 1, il discorso è quello, hai capito? Sì, ma se esco con un watt non mi senti. No, sto uscendo con lineare, altrimenti non mi ascolti. Perché la potenza è modulata, più parlo oppure se fischio più aumenta la potenza del lineare e se sto zitto diminuisce, ok? No, quello lo fai valvolare, non c'è problema, già lo conosco, ce l'ho anch'io con il lineare, ma io sto usando adesso il 140, quindi figurati tu. No, cosa? Che sto usando il 140, ho detto. Ah, sto usando il 140, quindi ho quasi 300. Beh, dovrebbe darmi 100 watt, cosa ne so? La verità, non gli ho mai chiesto l'apparecchio, dovrebbe darmi 120 watt, in teoria. Se me li dà, se la prende in culo, non è che me ne frega poi molto, è la verità. Per quelli che siamo, figurati, sono con 10 watt adesso, qua. Così è compressa, la modulazione è compressa, non si capisce niente. Voi entro sotto 50 watt, che va bene. Quindi così non posso far fare. Vabbè, lo stesso. No, non si capisce. Lui Santiago 9, però la radio è impercettibile proprio. È molto compressa e non si capisce. La modulazione non si capisce mai. Ma è leggermente satura. Adesso invece è chiara. 40 watt. succede, c'è un abbattimento qua, ci deve essere qualche altro su un altro canale qua. Aspetta un secondo, ti attacco il microfono e fix up, ti faccio vedere il contrario. Si rimane leggermente più chiara, Santiago 8, però la modulazione c'è molto bassa. Allora, Forezzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova adesso, va meglio? Ora, mi ascolti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta un attimo. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Arrivo. Cocco. Ciucucciù. Ora. Allora, 5-10, e qua quello su 10. Attenzione, binario 10, K!